X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Onorevole Nardella, anche se questo che abbiamo sentito, un Benigni dannata, sembra fatto ieri. Insomma, dobbiamo più che altro ridere per non piangere. Guardi che siamo a Mix 24, qui non più Agora. Buongiorno, Minoli. Buongiorno. Mix 24. Allora, c'è da ridere invece che da piangere? Beh, abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alle battute di Benigni, perché ora almeno non abbiamo mille ipotesi, ma ne abbiamo tre molto chiare. Tre ipotesi chiare. Proviamo a stringere. Ieri Brunetta ci ha detto questo. Senta un po'. L'accordo Renzi-Berlusconi, secondo lei, è vicino o no? Cioè, questa è una settimana buona o no? E da parte vostra ci sono dei paletti oltre i quali sopra o sotto non si passa o no? Election day, un turno maggioritario bipolare. Insomma, chi vince governa e lo può fare. Può essere questa una linea d'accordo? I paletti sono gli stessi, quindi ci siamo. Questi sono giorni decisivi. Secondo me l'accordo appunto non è lontano, ma non solo con Forza Italia, ma con tutti gli altri. Ma naturalmente, questo naturalmente. È vero, questa settimana si chiude, ha detto Renzi, si chiude con Berlusconi. Oggi è giovedì, restano venerdì, sabato e domenica. Beh certo, proprio in queste ore siamo al lavoro, quindi non mi pare che siano come dire parole al vento. Quindi Renzi tra oggi e domenica si vede con Berlusconi, se oltre a dopo aver visto gli altri. Certo che vedrà tutti i leader, se serve a chiudere sulla legge elettorale il segretario Renzi incontrerà anche Berlusconi, non vedo nulla di scandaloso. No, naturalmente, tra oggi e venerdì, tra oggi e domenica. I giorni non li so, ha detto il segretario che lo chiude in settimana. Va bene. Senta, comunque intanto il segretario ha proposto a Job Act, anzi ha annunciato, se ho capito bene, salario minimo per tutti, semplificazioni dei contratti. Che cosa si risolve così? Beh, il lavoro è decisivo per l'economia. Come ha ricordato lei, i punti sono abbastanza chiari. Primo, l'equità fiscale. Oggi in Italia conviene più investire sulla rendita finanziaria perché c'è il 20% di tasse e basta, che assumere qualcuno, perché le tasse sono più del doppio in questo caso, e allora bisogna drasticamente ridurle. Come si liberano queste risorse? Come si trovano queste risorse? Attraverso tagli della spesa pubblica. Tagli della spesa pubblica e la semplificazione della burocrazia. Ecco, da dove cominciamo a tagliare la spesa pubblica? Beh, intanto non più tagli lineari, cioè sparare nel certo, bucchio, ma naturalmente. Noi abbiamo, lo ha ricordato lei proprio a Mixer 24 qualche settimana fa, 36.000 centri di spesa pubblica in tutto il paese, molti di questi sono doppioni, anche come livelli istituzionali, per questo andremo avanti con decisione sullo svuotamento delle province. Sì, vabbè. Ma guardi, voglio parlare anche di un tabù, la sanità. Parliamo della sanità. Ministro Lorenzin si prodiga in interviste politiche, sì. Aveva detto al suo tempo la sanità non si tocca, non vorrei che non si toccasse in assoluto, cioè che non si facesse niente. Quindi tagliamo sulla sanità. No, dire tagliamo sulla sanità, mi perdoni, è sbagliato. No, scegliere qualcosa da tagliare, riqualifichiamo. Faccio un esempio concreto, se mi dà pochissimo. Noi abbiamo 200.000 posti letto ospedalieri pubblici che costano ogni giorno 900 euro. Allora, non si distingue tra, per esempio, lungodegenti, malati terminali e altri tipi di ospedalizzazione. Perché se invece distinguessimo, i posti letto per lungodegenti o malati terminali costerebbero molto meno, circa 250 euro. Va bene, quindi euro. Tagliamo su quello. Differenziamo, cioè non possiamo tenere in una stessa, come dire, corsia di ospedale malati che hanno bisogno di trattamenti molto completamente diversi. Non si tratta di tagliare ma di riqualificare, del resto lo ha fatto anche la Germania con Schroeder, quindi conservatore. E che ne facciamo del ministro della sanità? Beh, questo lo deciderà Letta, così come per tutti i suoi ministri. Senta, a proposito di ministri, dopo il Salva Roma di pasticci, i pasticci aumentano il governo, Salva Roma, poi sulla casa si capisce solo che si pagherà di più, non si capisce neanche quando e come. Mi sembra un governo confuso, un altro pasticcio orrendo ieri con gli insegnanti. Si chiedono soldi indietro, poi si cambia linea nell'arco di un giorno. Saccomanni dice: nessuno mi ha istruito. Ma non sarebbe ora di chiedere le dimissioni di Saccomanni, almeno lui? Io penso sia grave quando un ministro così importante come Saccomanni dica sono un esecutore o nessuno mi ha istruito. Le conseguenze però non sta a me tirarle, le conseguenze le dovrebbe tirare il ministro Saccomanni. E secondo lei che conseguenza dovrebbe tirare? Andare a casa? Le ripeto, non sono io che devo decidere. Quando noi abbiamo dato la fiducia al governo e anche a Saccomanni, non l'abbiamo fatto perché aumentasse di un punto percentuale l'IVA o perché si attardasse con il pasticcio dell'IMU. Senta, il governo Letta è un governo di minoranza del centrodestra, di minoranza del centrosinistra, ma senza un rimpasto. Ma come fa a reggere? Ogni giorno una pena. Parliamo concretamente. Rimpasto è una parola che non ci appartiene, anche perché se ci pensa non si può tradurre in nessun'altra lingua, è tutta italiana. Esatto. Proviamo a cancellare dal vocabolario, parliamo di nuovo governo e del fatto che se ci sono delle cose che non vanno e che si devono e si possono migliorare, perché noi sosteniamo questo governo perché cambi passo, e se per questo sarà necessario cambiare dei ministri, questa si valutazione cambia. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ovviamente indica i ministri, è lui che li indica. Vabbè, quindi è un consiglio che date al Presidente del Consiglio, vuole continuare a cambiarsi almeno Saccomanni, mi pare così di tradurre in italiano. Minoli, lei mi vuol far dire che no, io voglio far cadere il ministro Saccomanni? Non le dico questo, ma non perché abbia paura o timore. Io, come vede, non lesino critiche nei confronti del governo, pur mantenendo il rispetto. Quindi penso di essere molto chiaro. No, ma è solo perché ogni giorno una pena. Non c'è dubbio, ma se Saccomanni deve andare via, o lo decide Saccomanni dimettendosi, o lo decide il Presidente del Consiglio invitandolo a farlo. Senta, non può essere Nardella che lo dice. Naturalmente, lei è solo un consiglio. Senta, per risolvere i problemi alla radice, però, molti parlano di un governo Renzi subito, che starebbe anche nell'ordine naturale delle cose. È il segretario del partito di maggioranza relativa che sostiene il governo, ha preso 2 milioni di voti alle primarie e la sua legittimità è maggiore di quella di Letta. Beh, la Costituzione non esclude un caso del genere, del resto anche Letta è diventato Presidente del Consiglio attraverso una manovra parlamentare, però non penso sia questo l'obiettivo del segretario Renzi. Suo obiettivo, si ricorda, ne parlavamo anche a Mix 24, è quello di cambiare il partito. Mi fa piacere che non lo confonde con Agora. Ah, ci mancherebbe. Mix 24 è una trasmissione radiofonica straordinaria. Grazie. Quindi non posso confonderla con una trasmissione televisiva. Ah, sto scherzando. Le dicevo che appunto Renzi ha avuto 2 milioni di voti per cambiare la sinistra e poi ricandidarsi alla guida del paese. Sì, ma ogni giorno una pena, però. Attraverso una manovra ma di palazzo. Abbiamo visto tutti i pasticci che fa il governo ogni giorno. La legittimazione è forte, ma io che sono un cittadino normale che ragiono banalmente dico: ma forse è meglio, no? È tutto più chiaro, fatta la legge elettorale, fatto l'accordo per la legge elettorale, ma però può essere solo una mia idea. Che dice? No. Allora proviamo a dire una cosa: la vogliamo smettere nel nostro paese di collegare le modifiche delle leggi elettorali alle elezioni anticipate? Certo. Siamo l'unico paese in cui cambiamo le leggi elettorali con l'idea di andare alle elezioni. Speriamo di cambiare, perché non l'abbiamo ancora cambiata. No, dico, quando l'abbiamo cambiata, fatto il ridosso delle elezioni, giusto, ricorda, vero. Il Porcellum, l'abbiamo cambiato. Allora, che succede? Ogni partito pensa di farsi il vestitino su propria misura. Sì. Noi, proprio presentando 3 proposte, non una secca, diciamo: smettiamola di individuare la migliore legge che convenga a questo certo. Partito, individuiamo quella migliore del paese. Allora, mancano pochi giorni, come ha ricordato lei, ora, come dire, vediamo chi fa sul serio e chi è ancora fermo alle battute di Senta, Benigni. Le faccio ancora una domanda. Voi, molti di voi renziani venite da un'esperienza di amministrazione locale, che in genere l'amministratore locale ha chiari i problemi della gente perché sta a contatto. Ecco, questa rottura del rapporto fra la gente e il palazzo, come la ricucete voi che avete un che dovreste avere un linguaggio e un'attitudine alla politica diversa? Ha ragione pure questo tema. Io ho pensato a questi primi giorni che Renzi ha dato dei messaggi molto chiari. Intanto il fatto che riunisca la segreteria politica del più importante partito italiano, non solo nei palazzi di Roma, non solo nella capitale, ma anche in giro per il paese, a partire da Firenze, ma nei prossimi mesi anche in altre città, non è, come dire, un'operazione di marketing. È cercare di radicare meglio sul paese. Non vive solo tra le mura di Roma capitoline, ma vive, anzi, deve stare sempre meno tra i palazzi romani e sempre di più nelle strade, radicata nel paese. Senta, ma è la Roma della politica che trasforma idee e persone in una poltiglia? Una mia esperienza personale, e la sensazione è davvero che la capitale sia un po' stanca, ripiegata su se stessa, e all'inizio di un'idea politica differenziale. Senta, c'è il telefono che si sente male. C'è Secchi che le vuole fare una domanda per chiudere. Buongiorno Nardella. Secca, è tempo che al Ministero dell'Economia torni un politico, sì o no? Io penso che il Ministro dell'Economia debba essere guidato da un politico, come regola generale, perché abbiamo visto che l'esperienza dei tecnici non ha funzionato bene. Grazie Nardella, buon lavoro. Grazie. Abbiamo alzato la posta, ci siamo giocati tutto, anche il futuro dei nostri figli. E adesso, finalmente, ci godiamo quello che ci spetta. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Sua moglie dice che tutta questa competizione non fa bene ai ragazzi. Non mi sembra proprio. Guarda il Massi come è in forma, bello tonico, pronto a castigare gli avversari. Il teatro è morto? Credo che questo sia chiaro a tutti, no? Scusate se interrompo questa discussione fra intellettuali. Sarà che io sono una persona terra a terra forse, ma secondo me la gente che lavora è stanca. È stanca di cose che non si capisce e che fa venire il mal di testa. Io non mi posso proprio permettere di perdere tutti quei soldi. Te lo dovevo dire, lo so. T'ho già spiegato che questa è una roba temporanea. Senti cosa ho pensato. Ho avuto un'idea bellissima. Dai. Te la dico, poi mi dici. Sì. Tu mi ridai tutto il mio investimento iniziale, no? Poi quando il titolo cresce, perché cresce, no? Ma l'hai detto tu che ti tieni tutto tu, Giova. Anche se vanno alle stelle gli interessi. Dino, stai calmo, non funziona. Una roba tra me e te, Giova, in nome della nostra bellissima amicizia, dai, ci Dino, puoi stare, non no? Non funziona così. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Giova, ascolta, quei soldi lì sono tutto quello che ho. Anzi, guarda, non avevo neanche quelli, va bene? Ma stai dicendo? Io non riesco a seguirti. 700.000 euro che hai investito, dove li hai presi? Dove li ho presi? Ho chiesto un prestito in banca, no? Tu sei completamente pazzo. Ma le norme del contratto te le hanno lette o no? Di no. Guarda che se tu hai dichiarato un falso, sta roba qui si chiama frode. Frode! 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS era il trailer di Capitale Umano, è già polemica. Le prime pagine dei giornali discutono sul nuovo film di Virzì. È una metafora del mondo oppure una critica a un territorio, un modo di vivere? La Brianza. Andrea Vitali, lei è brianzolo, buongiorno, scrittore, tradotto in molti paesi. Virzì dice che la Brianza è come una tundra mongola dove le foreste sono pronte a inghiottirsi le villette degli immobiliaristi, i centri commerciali, le periferie degradate. È così? Non saprei, io non so che Brianza abbia potuto vedere Virzì, probabilmente non l'ha vista o ha visto, che ne so, una Brianza ai tempi dei grandi viaggiatori, diciamo di fine 800, quando non era edificata, oppure l'hanno indicato male, visto che pare che lui abbia dovuto sottolineare più e più volte le guide per raggiungere la Brianza. È probabile che abbia sbagliato strada e si sia infilato in qualche altro luogo. Ah, dice che non c'è arrivato in Brianza. Senta, ma l'industrializzazione selvaggia, si può dire che in qualche modo però l'ha modificato il territorio? Indubbiamente non solo l'industrializzazione selvaggia, ma anche la crescita dei centri commerciali, la scomparsa dei, diciamo, dei piccoli dei piccoli negozi, che ha modificato profondamente proprio l'infrastruttura, anche la piccola economia dei territori, e di conseguenza. Certo, anche c'è stato uno snaturamento un po' del territorio, però non riguarda solo la Brianza. Naturalmente, adesso parliamo di quella, perché Virzì lì ha girato. Però c'è anche nel film una critica di costume al modo di vivere ricco, vuoto. Senta un altro pezzo del film e torniamo. Era il direttore artistico. Il direttore di cosa? Del teatro, molto simpatico. Comunque poi per quella cosa lì bisogna un po' vedere, eh? Vedere cosa? Gerard dice che la ristrutturazione non può partire. Ma è tutto pronto, cosa stai dicendo? Carla, se le cose continuano così dobbiamo vendere. Che senso vendere? Nel senso che c'è un'offerta interessante, che si vogliono fare degli appartamenti. Non ho capito, hai una trattativa in corso, non me l'hai detto. Te l'avrei detto, adesso te lo dicevo, un attimo, cioè, abbiamo bisogno di liquidità. Degli appartamenti, ma non possiamo, Giovanni, abbiamo promesso a De Marchis che sarebbe rimasto un teatro, non possiamo. No, possiamo, perché per fortuna nel contratto questa clausola non c'è, quindi possiamo. Tesoro, lo so che ci tenevi a sta cosa, a me mi dispiace moltissimo, io se potevo fare altrimenti l'avrei fatto. Ciao, buona giornata. Insomma, i soldi prima di tutto, Vitali? Dunque, i soldi prima di tutto. I soldi io penso che facciano piacere a tutti. A tutti. I soldi sono indispensabili. Credo che anche a Virzì e compagnia cantante i soldi possano far piacere. Tenevo a sottolineare una cosa riguardo all'industrializzazione, alla cementificazione. I palazzinari, ad esempio, a partire dal nome con cui vengono identificati, non li abbiamo inventati noi. Certo che no. Ecco, io mi faccio brianzolo per una volta nella vita, poi dopo mi dimetto dall'incarico perché non lo sono. Però mi sento di dire che, diciamo, questa gente che ha vissuto e vive della religione del lavoro merita anche i frutti del lavoro che ha, che poi dopo questi soldi che ha accumulato siano anche, vadano anche a discapito di un certo tipo di vita. Vabbè, d'accordo. Senta, c'è Buttafuoco che vuol dirle una cosa. Oh, grande Butta. Subito, super grande. Sì. Ciao Andrea. Ciao Pierangelo. Io me la sono pensata così. Diciamo che Virzì ha lavorato sul luogo comune. È un po' come l'idea di Mastro Don Gesualdo, è una creatura vera, viva, scavata nella carne di un'identità ben precisa, che è appunto la religione dell'accumulo, a differenza della religione del lavoro, quella che prima tu descrivevi a proposito della Brianza. Io ti volevo chiedere una cosa e ti voglio portare in un ambito, diciamo, di Zizà. Ma non è che forse in Virzì ha giocato il pregiudizio ideologico, e che fa anche tenerezza immaginare che siano così attardati nel 2014 ancora con questi meccanismi. Allala. Tutti hanno smesso di leggere Marx e loro piegano il povero Marx alla cinematografia? Allora mi fa molto sorridere, no? Sorridere il termine tenerezza, sì, perché bisogna essere anche comprensivi con questi bambini che non hanno capito che... Illala! E che prendono anche bei contributi pubblici. Sì, ecco, ma i contributi lasciamogli. Ma basta con noi tutta sta congrega. Noi Buttafuoco al primo tempo era mica male, secondo tempo... Ma ascolta, noi primitivi e giurassici abbiamo abolito già da tempo i pregiudizi nei confronti del sud. Probabilmente quelli nei confronti del nord. Senta, sono duri e duri a morire. Senta Vitali, però le voglio dire una cosa. Io le voglio far sentire questo medley di film antichi, poi ne riparliamo. Sono tutto orecchie. A me le chiacchiere non piacciono, non ho mai parlato molto. Preferisco i fatti. Lei è di Milano? No, sono del Lago, di Luino. E di cosa si occupa? I miei mi hanno lasciato qualcosa e per ora sto guardandomi intorno per vedere che cosa c'è da fare. Ancora un po' che aspetta, lei farà la fine di mio marito, che ha quasi 50 anni e non ha ancora capito qual è il lavoro che gli va bene. Paolino è un pelandrone, Paolino non lavora, Paolino è pieno di debiti, invece il Paolino ha una carta grossa in mano. Non hai mai fatto un'ostia di buono nella tua vita. Ma cosa fa il mondo? Sparati! Sparati piuttosto! Avere odissea la mia. Se un giorno gliela racconto, lei non ci crederà. E farà bene, perché per il 90% sono tutte balle. Li ha riconosciuti, sono estratti dal film Venga a prendere il caffè da noi di Lattuada, la stanza del vescovo di Diego Risi. Ecco, era sempre la provincia, più o meno la Brianza. Perché questo filo rosso posso c'è allora? Posso, certo. Chiedo scusa. Prego. E c'è un nome, un cognome ben preciso che è Tognazzi. Porta, no, che porta direttamente ad Andrea Vitali, cioè Piero Chiara. Vero, Andrea Vitali ragione. È l'erede di Piero Chiara. Ah, beh, e allora diciamo che è in uscita premiata ditta Sorelle Ficcadenti da Rizzoli il prossimo 26 febbraio, così abbiamo completato l'opera. Però questo filo rosso fra il cinema, e questo è un cinema degli anni 70, e l'ambiente, questa terra, beh, insomma, vuol dire che c'è una critica ricorrente che non è solo quella di Virzì. Poi sentiremo Virzì cosa dice. Sì, beh, sicuramente c'è una critica che però è fatta con occhio benevolo e che tende anche, sì, a giustificare un certo tipo di comportamento. Per quanto io ho letto circa il film di Virzì, questa diciamo benevolenza non c'è. E allora proviamo a sentire l'intenzione di Virzì. Sentiamola, ben volentieri. È una storia corale con una trama che si compone come un mosaico che a un certo punto si infittisce anche perché c'è un'indagine, c'è anche un elemento proprio da thriller con lo scopo di realtà di raccontare di una galleria di personaggi e di vicende umane, un pochino come a volte capita di veder fare bene da certo cinema americano. Non è un caso che ci siamo ispirati a una plot di, una, certo, di un romanzo nordamericano. Pensavo proprio anche a quel modo di fare il cinema, a volte c'è per forza uno sguardo ironico, anche se magari è un'ironia meno tenera forse del solito, un pochino più beffarda e più feroce, perché tende a prendere di mira un momento particolare, anche molto drammatico, e essendo la storia di uno che cerca di approfittare della relazione della figlia con un rampollo di una ricca e potente famiglia per entrare, storia anche di escalation sociale, sì, cioè ambizioni sociali, facilone di arricchimento facile attraverso fondi piuttosto spregiudicati, sì, e quindi storie di quattrini, di ricchezza, di splendore, di miseria, di ambizioni, di illusioni. Mix 24. Vitali, un sms per lei. Virzì ha ragione, la realtà è molto peggio di quanto l'ha descritta nel film. Fabrizio. Allora io a Fabrizio dico una cosa, io non metto in dubbio che in Brianza esista un soggetto che campi sulla morte altrui, che approfitti delle conoscenze della figlia, cioè, però di questo unico soggetto fare l'emblema di tutta la però Brianza, ha sentito ha sentito però Virzì che dice una metafora, in realtà una metafora del reale, non è che ce l'abbiamo con la Brianza, questo è un luogo, la provincia in generale viene descritta. Questa è una marcia indietro clamorosa, facendo anche grattando un po', perché le cose che le cose che Virzì ha dichiarato sono completamente diverse. Ha dichiarato che Como è l'emblema del degrado, della pochezza culturale, ha chiuso il teatro, ha visto quello che voleva vedere, si andava a guardare il teatro sociale, il programma, se parlava con la Barbara Minghetti che è la direttrice del teatro avrebbe avuto informazioni. Senta cosa le dice Paolo Belluno: chi tocca la Lombardia gretta e saccente muore, quando i lombardi insultano e deridono il sud va tutto bene. Vogliamo andare avanti per luoghi comuni. No, per l'ha scritto Paolo Belluno, io non lo accetto. Lo dico Paolo di Belluno. Paolo di Belluno. Contatezze, allora io ne ho un'antologia, però non mi inchino a far polemiche con delle frasi fatte, preferisco ragionare sulle realtà che conosco e dico e affermo che questa realtà, la realtà della Brianza, non la conosce e ne ha voluto parlare senza saperne una mazza. Va bene, Mario? Non mi viene in mente un proverbio sardo, visto che siamo sui regionalismi, che dice Kentugon che askentu berrittas, 100 teste, 100 cappelli. Non generalizzerei, io sono d'accordo con Vitali. Io sono d'accordo con Virzì, siamo a posto. E cattive, come sempre. Buttafuoco è contro tutti, e non però è che sono ci fa. Tutti. Non ce la faccio più con tutta sta congrega di ricconi creativi. Ma ci fai ascoltare una bella canzone? canzone. I ricconi creativi senza mai un briciolo di spirito critico. Con i soldi di degli fantasia. Altri. Grazie, grazie Vitali, grazie Vitali, buon lavoro. Facci sentire una canzone che ci placchiamo. Uno come me sui 40 rotti, quando viene l'inverno sente i doloretti. Però sa ancora dirti amo, mentre i ragazzi dicono ci sto. Uno come te sui 40 rotti, non li vede proprio certi giovanotti. Scarseggio. Allora? Allora l'avevo promessa, è una dedica per Mario Secchi, perché lui confuta ogni volta la scelta di queste canzoni che si aprono al sentimento, e allora ho scovato la canzone adatta a lui, sempre di Lelio Luttazzi, lui che è il più giovanotto di noi, 40 rotti, insomma, sa cavarne una morale, anzi una estetica da questa canzone. Soprattutto le auguro l'estetica. Di incontrare delle gemelle Kessler appena fuori dalla redazione. Ho capito, dall'estetica all'estetista. Vabbè, potrebbe essere un'idea. E allora le bolle, cosa bolle in pentola? Apriamo la busta. Andiamo. C'è posta per te, Minuli, nel senso che ho letto un'interessantissima interrogazione sulle Poste italiane che dovrebbe essere discussa oggi in Parlamento, e insomma c'è tutto un mondo che è quello dei recapiti che le Poste appalta, che è in subbuglio, perché in 10 anni il valore degli appalti, che è in controtendenza con il cosiddetto auspicato processo di liberalizzazione, sta crollando. Da 70 milioni è passato a solo 28 milioni di euro. Entra il tema delle concessioni, non riguarda solo le Poste, riguarda certo, altri titani, la RAI, le ferrovie, c'è qualcuno? Non so. Ho l'impressione che ci sia Luca Zaia, presidente del Veneto, che ha avuto una bella idea, ha deciso, di disdire la convenzione con Trenitalia. Ci spiega esattamente che cosa ha disdetto? Ma guardi, le dirò che ho anche, glielo dico in anteprima, appena scritto una lettera un quarto d'ora fa, mezz'ora fa, perché vedo quotidianamente notizie di treni sovraffollati, i nostri treni regionali, alcuni ritardi e altre partite, e per carità saranno anche casi isolati, però non sono degni di un paese civile. Per cui mettiamo in discussione il fatto che ci possa essere solo ed esclusivamente un gestore, colui che ci gestisce i treni regionali, e facciamo una gara, speriamo che so. Che quindi lei fa una gara per i treni regionali? È una facoltà che ci viene data dalla legge. Le dirò che è una grande avventura, perché in Italia abbiamo una situazione atipica. Abbiamo sostanzialmente il Ministero dell'Economia che è proprietario, mi passi il termine, al 100% di Ferrovie dello Stato, e Ferrovie dello Stato è proprietario al 100% di Trenitalia. Senta, ma quanti soldi sono in ballo per questa convenzione che lei mette in discussione? Se volessi concorrere, che cosa devo fare? Sono centinaia di milioni di euro, perché poi tutta la partita del trasporto pubblico per noi significa oltre 700 milioni di euro. Senta, e quindi Zaia contro Moretti? Ma guardi, non è facile, una questione personale. Beh, insomma, è lui che comanda, quindi. Io vengo da una formazione manageriale e privata, per cui quando si firmano i contratti si firmano in due, e l'affare lo devono sempre fare in due. Se lo fa uno solo non funziona così. E quindi questo è un affare solo per Moretti. Anche il suo collega della Toscana, Rossi, credo che sia più o meno allineato con lei, che protesta contro le ferrovie per le ragioni simili. Sì. Sembra di sì, direttore, le dirò anche di più, che questa non è una protesta per partito preso. No, no, per cose concrete. Di fronte a un governo che giustamente fa un sacco di spot pubblicitari rispetto all'Expo 2015, dico, visto considerato che sei proprietario delle ferrovie e anche di chi le gestisce, sappi che non ci possiamo presentare ai turisti, al mondo, a livello internazionale, con questi disagi, perché ne facciamo una brutta figuraccia. E va bene, e allora ne riparleremo presto in un faccia a faccia. Presidente, la ringrazio, e chiariremo, andremo in fondo e vedremo intanto come è andata la risposta alla sua lettera. Grazie Presidente, auguri, buon lavoro. Mario, allora, cose di banca. Quando parla Draghi, silenzio, parla Draghi. Ha detto che siamo in recessione e che la crisi economica colpirà le famiglie. Davvero? Le famiglie? Giura? Avrei più detto Briatore e invece colpisce le famiglie. Colpisce le famiglie. Ah, signor Draghi, mi scusi, se le venisse in mente un'altra novità come questa, telefoni pure, anche nel cuore della notte, ce lo dica. Allora, Draghi, allora... perché? Perché c'è la prima riunione della BCE del 2014, è una riunione importante, non tanto sul fronte dei tassi, quanto per il fatto che si cominciano a, diciamo, comincia il processo di controllo dei bilanci delle più grandi banche europee. Draghi dovrebbe parlare, intervenire sul sostegno alla crescita. Segnalo che l'euro comunque continua a viaggiare su livelli molto alti, stamattina era 1,36, non ci saranno cambiamenti nella politica della banca centrale per ora, a quanto pare, però è sempre da tenere d'occhio. Sempre da tenere d'occhio. Sì. E poi. Oh oh. Salamino? Oh, questo è un salamino. Allora, che salamino? Salamino, chiedo alla regia di mandare in onda un inno a. Sfiorano le onde nere nella fitta oscurità. Eravate preoccupati, vero Giovanni, Mario, di quello che, della sorte che, dell'estetista che, non dell'estetista, di quello che capita in casa di Forza Italia, no? Il partito d'opposizione o di governo, non ho capito bene. No, ora è d'opposizione, è d'opposizione ora. Insomma, lì sono alla ricerca di un capo. Guarda, il capo c'è veramente? No, quello non è il capo, quello è il padrone. No, è anche il capo. È il padrone. Poi c'è il capo che deve mettere capo a tutti gli altri capi che se ne stanno andando via. Comunque l'ha trovato, è definitivo, è Giovanni Toti, direttore di Studio Aperto, direttore del TG4, che adesso comanda Forza Italia. Punte a capo. E lui. Emilio Fede protesta. Però. Emilio Fede protesta, ma lui si è lasciato andare una confidenza meravigliosa. Ha detto questo. Che Berlusconi un giorno sì e l'altro no, mi faccia capo del partito, mi sta bene. Che Berlusconi un giorno sì e l'altro pure dice mi toglie due stipendi di direttore, me ne devo procurare uno da parlamentare, mi sta bene. Ma che mi debba costringere a dimagrire proprio non mi sta bene. Ecco, vedi, è qui il quid, ha cominciato finalmente a contestare il padrone e si rivela un vero capo. Panza per tutti. Punte a capo. Molto bene. Va bene. Dice Mario, dice sì. Marco da Roma, sì. Ci suggerisce un tema per la prossima puntata. Preferireste un'Italia di 22 Campanie o di 22 Lombardie? Questo è un tema aperto e chissà che lo affronteremo. Campanie o Campagne? Campanie di Napoli. È un tema. O 22 però... Lombardie di Milano. Però sai che monotonia, tutte Mamma Lombardie. Mia, per fortuna che siamo così diversi. Scusa, il meraviglioso Veneto dove lo vogliamo mettere? Perché il Piemonte... Andiamo avanti con le bolle. No, guarda, che mi sa che c'è un altro salamino, perché lui aveva un salamino. Sì, oggi fa la doppietta. Allora... Ascoltate. Sì, pronto? Pronto? Che stai facendo? Sei polizia naga. Che cosa cerchi? Un moscio. Hai uno scopo? No, la scopa no. Dove ti trovi? Na cucina. E come vivi? Ma niente, così. Di dove sei? I palie, bravo cire. Qual è il tuo aspetto? Nivora, cuito, 1,40, 80 kg, che mi si fa tentare. Ma cosa pensi? Non trovo un moscio. Allora, il moscio. Ma sapete l'ultima di cosa accade in terra di Sicilia, in terra di Trinacria? Che i collaboratori dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, del Parlamento siciliano, sono stati assunti con contratto da Colf. Questa è fantastica. È la fantasia meravigliosa del governo Crocetta. Prima ascoltavo l'altro mio presidente, essendo il Veneto la mia seconda patria, e pensavo alla mia prima patria, dove la guerra all'Italia Crocetta la vuole fare facendo costruire gli aerei all'aste, cioè all'azienda siciliana di trasporti. La vedo bene. Eh sì, dei pullman con le ali, meravigliosi. Vabbè. Allora andiamo avanti, scrocettiamoci. Con le notizie. Con le notizie. Bello. Dunque, c'è una cosa divertente sulla tecnologia. Ve lo ricordate, Watson, che non è quello... La serie 9000 è l'elaboratore più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare. Non era Watson, era HAL, però il progetto è Watson, perché il supercomputer di IBM, che penso ha partecipato anche a un telequiz negli Stati Uniti che si chiama Jeopardy, il suo sviluppo continua, parliamo di intelligenza artificiale, è il domani che in realtà è già il presente, altri 100 milioni di dollari per la ricerca sul settore. Dopodiché, restando nell'ambito dell'high tech, delle tasse, della scusa cultura, che intanto ricordo, vai, il numero verde 800 24 00 24 per chi vuole telefonare, 349 238 6666, l'SMS cultura, prego. Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Allora, vive la France, perché restando nell'ambito dei giganti della tecnologia che però divorano anche cultura, il governo francese è in guerra contro Google per le violazioni sulla privacy, è stata approvata la legge anti-Amazon che servirebbe a proteggere il business delle librerie francesi. E a proposito di Google, abbiamo visto che anche in Inghilterra sulla web tax si muovono molto, insomma non è soltanto una mania italiana. Stati Uniti, Germania, Inghilterra, stanno tutti mettendo il punto sul fatto che questi debbono pagare le tasse. Non c'è nessuna lesione della libertà in soprattutto questo. Soprattutto non c'è nessuna tassa sul web. Esatto, non c'entra niente. Non c'è niente, il web libero, tranquillo, non c'è problema. Rilassato e così via. Poi, la compagnia del Golfo Etihad dovrebbe entrare in Alitalia in primavera. Queste sono le ultimissime indiscrezioni e insomma aspettiamo fiduciosi di vedere il destino di Alitalia. Viabilità. Mix 24 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Mario, ultimissimi aggiornamenti prima di parlare col professor Simonelli. Sì, c'è un aggiornamento istituzionale, cioè che c'è un concorso alla Camera per economisti, perché deve essere istituito l'ufficio di bilancio. Sembra una cosa burocratica, in realtà è una cosa molto importante che servirebbe ad aiutare i cittadini e le istituzioni a capire i bilanci pubblici, alla trasparenza, è un ufficio di analisi e studio sostanzialmente. Sì. Le manifestazioni per questo concorso di interesse vanno fornite entro il 20 di gennaio, mi pare. Quindi è una cosa interessante. E l'altra cosa viene dalla cronaca, dalle agenzie, sono state arrestate 7 persone a Roma per traffico di rifiuti, e la cosa notevole è che c'è l'ex presidente della regione, Bruno Landi, tra gli arrestati, e a Roma, e Manlio Cerroni, che è il proprietario della discarica di Malagrotta, per cui questa cosa è da tenere molto d'occhio, perché secondo me può avere dei grossi risvolti anche politici per la situazione nota dei rifiuti a Roma. Certo. Bene, allora parliamo di Dovere al canone ieri sera, il nostro tema con il professor Giorgio Simonelli della Cattolica di Milano. Professore, prima un attimo, dov'era il canone Mario ieri sera? Ieri sera non lo so, perché io ero praticamente impegnato nella profonda lettura di un libro sulla Prima Guerra Mondiale di cui ricorre il centenario, 1914. Non lo chiedo a buttafuoco, che lui la televisione intanto non la guarda. Dov'era il canone ieri sera, Pietrangelo? Non la guardo, ma... Ma la sai? Ma la so. Però non lo posso dire. Cioè, lui legge su Twitter, mi suggerisce Sara, che ha curato la notizia in 3D, dire, come non sempre. Non lo posso dire. No, dillo. Perché poi è un... Dai, dillo. Rai Storia, ma erano cose tue, bellissime. No, mie, non c'è più niente. Io sono cancellato dalla storia della televisione. 60 anni che sono. Quanti ne hai fatti tu, Rai? No, 40, ma non importa. Ma sono pochi, mi pare. No, su 60 sono è una buona ragione per dimenticarlo. Non ti ha chiamato Vespa? Professor Simonelli, c'era Bonolis, ma indimenticato. Resta negli annali della storia del ventennio berlusconiano quando, ve lo ricordate, quando Silvio Berlusconi lo accolse a Palazzo Chigi e fece schierare i lancieri di Montebello. Giustamente, aveva firmato un contratto con d'oro. Sì. Allora, professore, allora, dov'era il canone ieri sera? Intanto buon anno e buongiorno. Buon anno a tutti. San benedica, professore. E poi, buongiorno, prof. Minoli, faccia guardare un po' più di televisione lì ai suoi amici. Lo guardano già tanto gli italiani. Allora, ieri se la guardano loro, lei poi... Io per forza. Il canone, mi sarei aspettato che fosse su Rai 1, perché questo progetto degli anni spezzati è un progetto interessante. Perché insomma, tre fiction con un'ottica diversa, che non è soltanto quella dell'analisi del terrorismo, ma della frattura della storia, gli anni spezzati. Professore, scusi un attimo, io so che lei guarda per contratto la televisione, ma non so se ascolta la radio. Noi abbiamo trasmesso la storia di Calabresi, bellissima. E il fatto è che, ecco, mentre la storia vostra adesso era bellissima, questo prodotto Rai era un pochettino modesto, posso dirlo, un po' modesto, pieno di cose prevedibili, con questi antagonisti, chiamiamoli così, che sembrano usciti dal musical Air, vi ricordate il musical? Tutti colorati, no, che cantano, con qualche caduta, scivolata finale nella retorica. Oltretutto c'è un modello, il film di Giordana, uscito l'anno scorso, quindi alcune cose vengono un po' replicate. Insomma, non mi sembra che siamo partiti proprio con un prodotto da canone, per cui vi lancio questa cosa. Ieri sera il canone, invece che su Rai 1, era su Canale 5, perché Canale 5 ha mandato in onda Basilicata Coast to Coast, cioè uno dei film italiani più interessanti degli ultimi anni. È vero che insomma i film arrivano ormai sulle generaliste un pochettino frusti, perché sono passati e ripassati anche sulle tematiche, eccetera, però visto che avete parlato molto dei luoghi comuni, delle rappresentazioni regionali, a proposito di Virzì, mi sembra che bisogna dire che Papa Leo ha fatto un ritratto della Basilicata coast to coast molto originale. E allora forse in questo caso il confronto tra quello che vedremo, io ancora il film di Virzì non l'ho visto, ecco, e questa metafora della Basilicata, che è una metafora della vita, della giovinezza, della vecchiaia, del passare del tempo, fatto attraverso un viaggio, attraverso una regione, è professore, estremamente interessante. Professore, c'ho Riccardo d'Arezzo che mi critica severamente, pur dicendo di amare le nostre trasmissioni, perché facciamo la rubrica su Dove era il canone ieri sera, e pensa che sia una cosa nostalgica da parte mia. Vorrei spiegare a Riccardo e a quelli che per caso ci ascoltano e hanno lo stesso dubbio che il problema non è quello, è che parliamo di Dove era il canone perché è una tassa che pagano tutti gli italiani, in cambio della quale debbono avere un servizio. Dato che la televisione è vista tantissimo, tre ore, più di tre ore al giorno da tutti, ritengo che in un servizio di informazione come il nostro, una rubrica su questo, ci debba essere, diceva Pietrangelo. No, mi ha toccato la corda della nostalgia. Possiamo fare anche una rubrica Dove era la marcia su Roma ieri? Andiamo avanti, professore. Dimmi Mario. Due cose. La prima, ho una dissent opinion su Calabresi. Io penso che in realtà quella fiction sia una maniera diversa di vedere il personaggio Calabresi, e quella vicenda è come tale vada quindi letta e interpretata, però ovviamente de gustibus non est disputandum. Poi l'altra cosa è che un ascoltatore chiede che cosa stavo leggendo sul 1914. È un libro in inglese se lo può ordinare su Amazon, si chiama The Faithful Here, è focalizzato sull'Inghilterra, che era il un punto molto importante in quel momento per la soluzione o meno della crisi e quindi della guerra. Se invece vuol farsi un'idea più romanzata ma estremamente intrigante e interessante, io consiglio di leggere The Fall of Giants, La caduta dei giganti, è tradotto anche in italiano ed è uno straordinario libro di Ken Follett. Hai visto? Allora, professore, e adesso che cosa ha da dire? Tornavo su Calabresi, perché sì, è vero che c'è il tentativo di dettare uno sguardo diverso, però quella scelta del giovane che poi diventa il poliziotto, che poi si arruola, resta in polizia, mi sembra più cervellotica che originale, ecco. Però come dice Seiki, insomma, non possiamo star qui a discutere delle nostre valutazioni. Io continuo a parlare di canone anche se l'ascoltatore lì mi vuole no, ma non si preoccupi. No. vuole lasciarmi senza rubrica, ma io vado avanti. Ah, sì. Allora, dicevo, questa cosa di Papaleo è interessante anche perché Papaleo ha un film nelle sale che ha presentato e ripresentato in questi giorni, nei giorni passati, è andato in tutte le trasmissioni televisive possibili per lanciare questo boss in salotto, ma soprattutto Papaleo ha fatto un film recentemente, una piccola impresa meridionale, sempre, ecco, che potrebbe essere il contraltare della Brianza, tanto per tornare a sì, professor... quindi insomma chi voleva seguire un po' la carriera di Papaleo come regista lo trovava, vedersi. Ieri sera il canale 5 ha fatto aveva un po' di servizio. Senta, poi devo, se ho tempo... professore, un attimo, c'è Mario che ci scrive, devo fare una precisazione, tasse sul web, bravi, mettete ancora delle nuove idee al governo per come spremere ancora di più i cittadini. Ecco Mario, le chiedo scusa, ma non ha capito proprio niente, il web non è tassato, si parla di tassare le grandi compagnie multinazionali che prendono i soldi italiani e li trasportano alle Cayman senza pagare le tasse loro, non noi, sui redditi, per intenderci, ecco, sui era ricavi. Una precisazione, un problema che doveva... di linguaggio, perché questo fatto che devono parlare sempre l'inglese dei cretini cognitivi, i renziani fanno confusione. Mamma mia, professore, concludiamo, mancano 30 secondi, professore, 30 secondi. Allora, siccome lei prima di l'ultima trasmissione mi ha rimproverato di non parlare mai di informazione, dica. Avete notato una cosa, la centralità della Gruber, quello che è successo ieri con Renzi che ha fatto fare marcia indietro al governo sugli insegnanti, è nato a 8:30 dalla Gruber. Quando Renzi ha detto io questa cosa non la posso tollerare e mi arrabbio, e a una giornalista del Sole 24 Ore che diceva arrabbiarsi non basta, ha risposto vedrete che non solo mi arrabbio, farò qualcosa. E allora la Gruber è al centro del sistema dell'informazione. Viva Lilli! Da niente a tutto, brava Lilli! Quindi arrabbiandosi non solo è l'erede di Fonti, ma anche di Bud Spencer e Terenzini. Grazie professore, dopo il giornale radio torna Mix 24 con la storia. Oggi la storia, come sempre, curata da Marina Milone. Racconteremo la storia dei fratelli Cervi, una tragica vicenda della resistenza italiana, a seguire un'intervista con lo storico Alessandro Casellato. Grazie.